prima di prendere il potere, agorafobico Pereira non era. Silenzioso sì, riservato sì, agorafobico no. Non aveva paura né delle piazze vuote, né delle vie deserte, né dei viali dalle lunghe prospettive e meno ancora delle folle che vi bazzicano. Non che amasse particolarmente la folla, ma vi era abituato. Le folle miserabili della sua infanzia, a Ponte, davanti alle cucine del padre o nei corridoi dell'ospedale. Le folle religiose durante la notte di Natale e la crocifissione del Venerdì Santo. Le folle contadine di tutte le feste di santi patroni cui la famiglia da Ponte si sentiva in dovere di assistere. Le folle dei matrimoni e quelle dei funerali. Le folle dei mercati e delle fiere, le folle alcolizzate dei grandi sabba notturni, quando i bengale illuminano le maschere fra le detonazioni. No, non aveva mai avuto paura della folla. Anzi, a pensarci bene, esclusi i pasti consumati in famiglia, le partite a scacchi e i momenti di lettura solitaria, Pereira aveva sempre vissuto tra la folla, se così si può dire. A Teresina, dai gesuiti, tra le folle infantili delle ricreazioni nel cortile della scuola. In Europa, tra le folle fruscianti delle feste da ballo, le folle infreddolite all'uscita dei teatri, le folle clandestine nei quartieri delle femmine, le folle nervose alle corse e perfino a Parigi le folle degli operai in sciopero. Quanta gente, in fondo, Pereira avrebbe potuto contare le sue ore di solitudine. No, davvero, non aveva mai avuto paura della folla, né delle grandi piazze vuote. Allora perché agorafobico? Per via di una frase pronunciata da un altro Manuel Caiado Crespo, il capo degli interpreti, uomo schietto e letterato finissimo. A proposito del defunto generale presidente, Manuel Caiado Crespo dichiarò: quel coglione è morto per mano annunciata. Significa? Domandò Pereira, che passava di lì e non avrebbe mai dovuto sentire quelle parole. Significa che quel coglione era stato avvertito, signor presidente. E da chi? Visto che due secondi prima di premere il grilletto nemmeno io sapevo che l'avrei ucciso. Dalla Mae Branca, rispose Caiado. Ma quel coglione non sapeva né leggere né ascoltare. Cosa dirà di me dopo la mia morte, Caiado? Domandò come marginalmente Pereira. Quello che mi avrà suggerito la sua vita, signor presidente, e lei farà lo stesso se verrà al mio funerale. In questo non c'è alcuna maldicenza. Il generale era... Ha visto la sua uniforme? No, davvero, un coglione. È il riassunto della sua vita, lo dico quasi con affetto. La Mae Branca, la madre bianca, era una maga brasiliana, originaria del Ceará. Una maga bianca, in opposizione alle maghe nere. Non è una questione di pelle, bensì di magia. La maga nera, che può essere bianca di pelle, lancia fatture. La maga bianca, che può essere nera, si limita a predire e a togliere incantesimi. Tutti vanno dalla Mae Branca, per l'amore, la famiglia, la salute, il denaro, la carriera. C'è stato persino un famoso professore che si è rivolto a una maga bianca per sapere se avrebbe ottenuto la cattedra di antropologia religiosa all'Università di Teresina e se avrebbe partecipato a convegni in giro per il mondo. Lo stesso professore andò poi da una maga nera per eliminare i suoi rivali. Di fatto, i colleghi gli cedettero misteriosamente il posto e costui, ormai molto anziano, è ancora oggi l'unico specialista riconosciuto nel suo campo. Ma questa è un'altra storia. Alla vigilia di un colpo di Stato, gli aspiranti dittatori si rivolgono alla Mae Branca, ovviamente. E anche nelle democrazie, i candidati alla presidenza della Repubblica il giorno prima delle elezioni. Pereira si rese conto di non averlo fatto. In Europa aveva letto Auguste Comte e non credeva più a queste cose. Come tutti coloro che non ci credono, Pereira andò comunque a far visita alla santa, per curiosità.